Prima che il mio presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse, schiusera l'uscio e la magion deserta, e dove ora sarà quell'angel caro colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei si pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù talor mi credo. Ella mi fu rapita e chi l'ardiva ma ne avrò vendetta. Che le sferi agli angeli.